Tempo di sport con Massimo Callegari. Amici di Radio 24, buon pomeriggio, bentornati, vi aspettiamo come sempre all'800 24 00 24 per le vostre telefonate, messaggi SMS 349 238 6666, come promesso ieri, non su vostra richiesta ma per un programma già definito anticipatamente, democraticamente, come ha chiesto un ascoltatore. Partiamo da squadre di medio o medio-basso rango, considerando che l'anno scorso alcune di queste hanno fatto un ottimo campionato, l'Udinese è l'esempio principale, ma altre hanno faticato molto più del previsto, la Sampdoria che è crollata ed è retrocessa in Serie B, oppure hanno mantenuto un profilo limitato rispetto magari alle ambizioni e agli investimenti, penso ad esempio al Genoa che ha speso tantissimo, ha mosso tantissimo soprattutto sul mercato come sta facendo ora. Poi naturalmente vi faremo sentire le parole di Luis Enrique alla sua prima conferenza stampa ufficiale da allenatore della Roma e quelle di De Laurentiis che rilancia ancora su Hamsik e sulla sua quotazione di mercato nel giorno della presentazione di Mario Alberto Santana e molto altro in compagnia vostra e di chi ha seguito in maniera molto attenta l'anno scorso su Premium Calcio anche in mia compagnia la Serie A e che dunque ha un quadro ben definito anche delle squadre non solo di primissima fascia. Bentornato a Gianni De Biasi. Ciao Massimo, un saluto a tutti i radioascoltatori. So che sei in vacanza, ti ringrazio per la tua disponibilità in questa giornata. Per parlare, come ho anticipato, anche delle squadre che ambiscono a fare un campionato di buon livello, magari poi lanciando altri giocatori nuovi, partendo da una realtà che tu conosci, hai conosciuto molto bene dal punto di vista professionale, molto direttamente, perché ieri diversi ascoltatori da Udine erano un po' delusi, dicevano ma come, abbiamo la possibilità di avvicinare ulteriormente le grandi, di fare una Champions di discreto livello e se ne vanno tutti i migliori. Perché secondo te questo salto di qualità in realtà non viene fatto e perché la dimensione scelta dai Pozzo è questa qua? Beh, vedi Massimo, io sono convinto che la famiglia Pozzo sia una famiglia che ha ormai radici profonde nella storia del calcio italiano, specialmente a Udine hanno fatto secondo me cose straordinarie, non ultima questa qualificazione alla preliminare di Champions League, che è sicuramente un motivo di grande vanto per una piazza relativamente piccola come Udine. È chiaro che di fronte a situazioni di mercato particolare, di fronte a interessi di grandi club, vedi Barcellona, è chiaro che l'Udinese è messa sicuramente in angolo da un certo punto di vista e quindi il giocatore che è ambito da una squadra come il Barcellona difficilmente riesce a tenerlo a Udine. Se ci rimane contro voglia, ci rimane con dando forse il peggio di sé e di questi aspetti l'Udinese ne tiene conto, ma dall'altro lato pone la cosa fondamentale che per il club, per rimanere in vita, per rimanere forte anche a livello economico, deve cercare di stabilire dei prezzi che sono sicuramente prezzi importanti per questi momenti e non a caso trattano con i club di primaria importanza. Vedi anche la cessione di Inler, che è un giocatore che può essere nell'economia dell'Udinese e forse anche nelle intenzioni della proprietà probabilmente rimpiazzato con un altro giocatore di qualità. L'Udinese non fa mai le cose così, campate per aria, è una grande società, una grande società e ha secondo me anche persone illuminate all'interno che riescono con meno risorse a stare al pari di tanti che spendono tantissimo. Devo dire che anche i due nuovi acquisti, oltre a Barreto che hai conosciuto, Danilo difensore centrale che arriva dal Palmeiras e Dubai centrocampista animalesco che arriva dallo Young Boys, si riveleranno, credo, ottimi investimenti. C'è invece un giocatore, Gianni, che è stato, soprattutto per la prima parte della stagione scorsa, considerato un sicuro uomo mercato per quest'estate. Poi si è un po' allontanato dai riflettori per vari motivi. Mi riferisco a Javier Pastore. Ora Zamparini sta proponendo il giocatore, lo sta esponendo sul mercato, parla di squadre in maniera generica, alcuni tipo Galliani l'altro giorno si estromettono subito dall'asta. Ci sono, secondo te, sono emersi rispetto all'anno scorso, alla prima fase di questa stagione, dei dubbi da parte di chi pensava di investire pesantemente su Pastore? No, io penso che i dubbi tecnici non ce ne siano, siano più che altro correlati agli aspetti del ragazzo che non è ancora raggiunto la maturità, l'apice, anche se è un giocatore di straordinario talento secondo me. E l'altro aspetto fondamentale è che Zamparini in questo momento sta forzando molto e sta cercando di imporlo in un mercato in questo momento poi a cifre che sono fuori secondo me dalla portata. E adesso il gioco delle parti recita così: poca gente che si interessa al giocatore, poche realtà che si interessano a questo ragazzo e molti magari che vorrebbero prenderlo magari a condizioni completamente diverse, però anche lì è una strategia. Zamparini, da quello che mi così che vedo, leggo, è fortemente intenzionato a darlo via. Probabilmente anche perché ha capito che Pastore a Palermo oramai non ha più grandi ambizioni e vorrebbe magari riproporlo su un palcoscenico sicuramente più interessante, e sarebbe forse la naturale evoluzione di questo ragazzo, però è tutto da vedere, perché siamo in un periodo di grandi difficoltà e anche le società sono molto attente a non buttare i soldi dalla finestra. Senti, è più affascinante o è più complicato mettere insieme una squadra come il Genoa, che viene composta, scomposta e ricomposta come cubo di Rubik dal suo presidente? Ma sicuramente è affascinante per certi aspetti, perché è sempre una sfida. È chiaro che ogni volta che uno deve riassemblare un sacco di giocatori nuovi incontra difficoltà sempre nuove, e mai neanche l'esperienza ti aiuterà al punto tale da poter ovviare magari alcune deficienze legate magari all'incompatibilità anche caratteriale tra alcuni elementi, perché noi siamo sempre bravi a valutare il giocatore in campo, ma poi dobbiamo decontestualizzarlo, di portarlo in un'altra realtà e via discorrendo, poi si deve inserire in un ambiente, tutti questi aspetti qua che vengono tralasciati, e quindi l'allenatore è sempre poi sulla graticola lui, perché chi poi si smazza le cose è sempre l'allenatore. Alla fine della fiera si è... non so, tutti questi aspetti secondo me sono legati a movimenti e anche a tentativi di lanciare giocatori che hanno magari un mercato attualmente non straordinario, che però possono essere buoni per il prossimo mercato invernale o estivo. Invece, come possiamo giudicare secondo te l'attuale provvisorio sicuramente immobilismo della Fiorentina, non totale, nel senso che sono arrivati giocatori come Nastasic, difensore centrale del Partizan di Belgrado, e Romolo dell'Atletico Paranaense, però ci sono insomma altri giocatori come Mutu che se ne vanno, tornerà Jovetic che sarà fondamentalmente un nuovo acquisto, e poi c'è anche, rispetto a tutte queste considerazioni che facevi tu sulla figura dell'allenatore, un po' di attese, di curiosità su Mihajlovic dopo quella fase in cui lui insomma è stato tentato di dire sì all'Inter se l'Inter avesse puntato su di lui. Sì, è chiaro che però era sotto contratto, e quindi da parte di Moratti c'è stata sicuramente una grande attenzione nei confronti della Fiorentina di non andare a mettere il naso in casa di un allenatore che era contrattualizzato con il club viola. Fosse stato libero, probabilmente Mihajlovic sarebbe stato il prossimo, sarebbe stato oggi sulla panchina che oggi occupa Gasperini. Dall'altro lato direi che la Fiorentina ha perso giocatori importanti, Mutu, lo stesso Donadel, Montolivo non si sa ancora che fine farà, dall'altro lato non hanno riscattato pur dopo aver fatto un grosso investimento d'Agostino. Sono tutte situazioni che sono da valutare in base poi a quello che è stato un po' l'andamento del campionato della Fiorentina, e poi direi che lì a Firenze le cose sono state valutate in maniera chiara. C'è da capire quanto ancora la proprietà voglia investire, perché a fronte di mancati, tra virgolette, impegni dell'amministrazione nei confronti di Della Valle, probabilmente i Della Valle stanno tirando un po' i remi in barca da un certo punto di vista. È vero, come citavi tu, che Jovetic è sicuramente un nuovo acquisto, un giocatore importante, però secondo me la spina dorsale della squadra, i giocatori che fanno la differenza, bisogna che la Fiorentina su quelli deve puntare. Mutu è un giocatore che A livello caratteriale sicuramente un giocatore difficile da gestire, però è anche difficile da sostituire perché tecnicamente è veramente molto forte. Gianni, rimani con noi ancora qualche istante perché tra poco sentiamo Luis Enrique e ti chiedo un parere anche su questo progetto molto affascinante, anche con qualche rischio, della nuova Roma, e poi sulle neopromosse, visto che tu hai una bella esperienza in questo senso sia con il Modena che con il Torino, anche perché c'è chi mi chiede e ti chiede considerazioni un po' nostalgiche sul tuo ex Toro. You and me were meant to be walking free in harmony. One fine day we'll fly away. Don't you know that Rome wasn't built in a day? Hey, hey, hey. Roma non è stata costruita in un giorno, e questo è il concetto principale che emerge dalle parole, le prime in Italia, da presidente della Roma dopo la sua apparizione fugace di qualche mese fa per avviare e completare la trattativa di Thomas Di Benedetto. Non si costruisce in un giorno, in una settimana, in un mese, poi l'ha ribadito anche Luis Enrique. Altre parole del presidente: le perplessità di Totti, lui è il più grande giocatore che ci sia mai stato nella Roma, forse in Italia. Faremo il massimo per mettere in campo la squadra migliore. Vogliamo che De Rossi rimanga per lo stadio, e prima parliamo con il CONI. Baldini, ufficiale alla Roma da autunno, dopo la conclusione delle qualificazioni ai prossimi europei della nazionale inglese. Questo invece Luis Enrique. Buongiorno a tutti, scusa il mio italiano è molto brutto, però sarò molto bene, sarà migliore dopo due mesi, due anni, non lo so ancora. Colaboradores joven, no solo lo hace por un modelo de juego y por una idea, sino también por la necesidad de buscar otros valores. Cuando yo he hablado con los dirigentes a la hora de entrar en negociaciones para venir a Roma, han hecho un seguimiento de qué era lo que hacíamos en Barcelona con el equipo Primavera. Mi idea de fútbol es una idea de ataque, de utilizar jugadores de mucha calidad. Questo Luis Enrique, la mia idea di calcio è un'idea di calcio offensivo con grande qualità, e poi avete sentito l'introduzione con un italiano ancora da migliorare, gli applausi da parte dei giornalisti molto simili a quelli dell'altro giorno al presidente De Laurentiis a Napoli, e la considerazione sui giovani non solo per un certo tipo di gioco ma anche per un certo tipo di valori. Ti chiedo più o meno, Gianni De Biasi, la stessa cosa rispetto prima alla panchina del Genoa, anche se le proporzioni sono diverse. È più affascinante o più rischioso, considerando anche le aspettative della piazza giallorossa, questo nuovo progetto? Ma è sicuramente un progetto affascinante per certi aspetti, dall'altro lato c'è un azzardo nel cercare di creare un modello che in Italia può essere importato, ma non siamo ancora pronti, secondo me, a livello di mentalità, perché tra noi e la Spagna c'è una diversa veramente mentalità. Lo spagnolo è più propenso a vedere il calcio nella sua interezza, nella sua globalità, e il bel gioco passa davanti al risultato. In Italia è viceversa, il risultato viene prima di tutto, e quindi Luis Enrique avrà da lavorare moltissimo. Non so quanto tempo avrà in una piazza così importante come quella di Roma, nella quale, al di là delle parole di Thomas Di Benedetto, che mi sembra che non abbia detto nulla di particolare, abbia detto quello che la retorica porta a dire in questi momenti, che Roma non è stata fatta in un giorno, cioè tutte ovvietà, però poi è la prova del campo quello che farà la differenza, ed è come i giocatori riusciranno a recepire i discorsi e quanto vorranno farlo. Questo è l'aspetto più importante, perché riproporre un modello come quello del Barcellona parte dalla cantera e parte dal più piccolo a recitare un ruolo, e tutti giocano alla stessa maniera. L'obiettivo è la tecnica, diceva prima Luis Enrique, il mio gioco d'attacco è un giocatore di qualità. Non ha detto nulla di particolare, lo vorrebbero tutti, perché molte volte gli allenatori non hanno queste possibilità. Probabilmente a Barcellona, quando si fanno selezioni di un certo tipo, però avere allenato squadre mai di prima squadra non penso sia un aspetto di poca rilevanza. L'ultima cosa, ti dicevo prima di neopromosse, intanto Mauro da Torino dice di chiederti oltre a salutarti, un giudizio sulla situazione che lui definisce sempre più penosa del Toro, una squadra che per tifoserie meriterebbe ben altri palcoscenici. Te la senti? Ma sì, io posso dire tutto quello che vuoi sul Toro. Sul Toro c'è un ambiente particolarissimo, un ambiente straordinario, stimolante e al tempo stesso prigioniero del proprio passato. Però devo dire anche che certe cose sono state fatte in una certa maniera, poi altre un po' meno, non dando mai continuità al discorso che facevamo prima sul Genoa, se facciamo sugli altri allenatori. Se tu ogni anno sei costretto a cambiare uno, due, tre allenatori, quando non cambi tutti i dirigenti, tutte le volte i direttori sportivi, c'è qualcosa che sballa, sicuramente c'è. Allora io dico che Torino in questo momento mi sembra che abbia fatto una scelta importante di aver preso un allenatore che io stimo moltissimo, che ha competenza, che ha personalità e che può essere sicuramente un punto di riferimento, e Torino ha bisogno di punti di riferimento. L'ultimissima cosa, sarà un fattore il campo sintetico del Novara in Serie A? Potrebbe esserlo perché i nostri giocatori non sono abituati a giocare sui campi sintetici, salendo sui campi durante la settimana in erba, e il rimbalzo della palla è completamente diverso, e sicuramente anche è un discorso di mobilità e di preparazione, quindi di risposta a un terreno che si avvicina molto all'erba naturale, ma non è erba naturale. Gianni, io so che, insomma, come tutti gli uomini di campo, tu ambisci a tornare su una panchina. Devo dirti che egoisticamente, se sarai ancora con noi per un po' a Premium Calcio il prossimo anno, considerando le tue qualità di commentatore, non mi dispiacerà. Massimo, a me è piaciuta molto l'esperienza, specie con te e con altri tuoi colleghi, però tu sai che mi piacerebbe moltissimo tornare in campo, anche perché penso di avere qualcosa da dire, però se non sarà possibile sarò ben contento di continuare con voi. Va bene, buona estate, in bocca al lupo a Gianni De Biasi. Un saluto a tutti i radioascoltatori. Grazie per questo intervento. Ci sono un po' di telefonate, 800 24 00 24. Mi raccomando, democraticamente. Franco da Venezia. Sì, buongiorno, volevo solo intervenire. Io abito nelle vicinanze di Udine, in pratica a Portoguaro, dove quest'anno è retrocesso anche il Portogallo. Sì. Volevo solo intervenire a riguardo all'Udinese. Non sono tanto esperto, però voglio solo sollecitare che il patron Pozzo ha esplicitamente chiarito in varie trasmissioni televisive e radiofoniche che se avesse trovato l'occasione, in questo caso il Barcellona o chi che sia, che su una somma ben cospicua avrebbe fatto lo stadio. Quindi non vedo il motivo perché il popolo udinese deve arrabbiarsi per affrontare una Champions o una Liga inferiore, insomma. Sì, beh, naturalmente il motivo è che ogni anno bisogna ripartire, quindi siccome c'è pazienza e quindi si riesce a ricostruire, però si perde un po', no, il lavoro degli anni precedenti e il salto di qualità. Guardi, lui ha anche affermato, il suo lavoro in varie trasmissioni radiofoniche, ha anche affermato queste cose qua, che lui, il modello sarebbe Barcellona, ma di quel poco che ne capisco io è più quello di la squadra olandese, l'Ajax sì. che è più in sintonia, perché sfornano giocatori a non finire, tutto qua. Va bene, chiarissimo. Saro da Catania, prego. Oh, salve, prima di tutto forza Catania, ho parlato qualche volta di Montella e dei suoi ragazzi argentini. Io volevo sapere della Coppa America, scusate, non sono stato in ascolto della radio, ne parlate oppure no? Perché ormai siamo arrivati sì. ai quarti di finale, no? Sì, beh, certo, ne abbiamo parlato in questi giorni, no, non tutti i giorni, perché ci sono naturalmente anche altre priorità. No, mi fa sorridere questa cosa che ieri mi sta proprio un ascoltatore, il suo concittadino, chiama e dice parlate un po' anche di altre squadre. Non solo delle grandi, e poi nel giorno in cui ne parliamo un catanese ci chiede di parlare della Coppa America, quindi questo è molto indicativo e poi anche della Coppa America della Coppa America, insomma, questa notte il Paraguay e il Venezuela hanno pareggiato 3-3 in una partita piuttosto variabile nel suo sviluppo e neanche nel suo esito finale non del tutto prevedibile, con il Venezuela che prima vinceva poi perdeva 3-1 e alla fine ha segnato due gol in 3-4 minuti, ha pareggiato, ha ottenuto il secondo posto nel girone e quindi il Brasile poi ha battuto, non senza difficoltà, nonostante un errore chiaro e uno non chiarissimo, ma comunque che c'è stato di Julio César, ha battuto l'Ecuador 4-2 con Pato che ha segnato due gol anche di Neymar. Il Brasile ha vinto il suo girone, giocherà contro il Paraguay, l'Argentina invece affronterà l'Uruguay e saranno i due quarti di finale più interessanti. Gli altri due sono Cile-Venezuela e Colombia-Perù, con ipotesi a questo punto di un'Argentina-Brasile possibile solo in finale, come è stato nelle ultime due edizioni. Però il percorso per entrambe non sarà facile, a partire dai quarti. Ancora qualche telefonata, 800 24 00 24, messaggi sms, ancora alcuni da Udine, 349-238-6666. C'è chi chiede a Gianni De Biasi di tornare non a Torino ma a Modena, dove ha fatto un grandissimo lavoro, serie C, B, serie A, salvezza, con una squadra che aveva grandi interpreti per le varie categorie, con le Grottaglie che ha in sostanza iniziato lì la sua evoluzione e la sua carriera ai più alti livelli. Rino da Caserta, prego. Ciao. No, io Forza Napoli, quello che volevo dire, sembra che si sia raffreddata la pista AMSIC per il Milan, anche prima del Lodo Mondadori. Però quello che volevo sottolineare, l'atteggiamento di Moratti per quanto riguarda ad esempio Mialovic, lui ha detto: io non vado a scomodare situazioni allenatori sotto contratto. Mentre il Milan utilizza un altro atteggiamento, si può parlare di uno stile Milan e di uno stile Inter? No, guardi, si può parlare di dichiarazioni ufficiali e di mosse che fanno parte del calciomercato e che le società, con una maniera più o meno evidente, più o meno acuta, con legami e rapporti più o meno consolidati con dirigenti di altre società, vanno poi a mettere in atto. Nel senso che Moratti ha detto quelle cose ufficialmente, però altrettanto ufficiosamente, ma le fonti sono molto affidabili e quindi è, secondo quanto mi risulta, qualcosa di vero, non solo di realistico, era stato chiesto a Mihajlovic di tenersi pronto per la panchina dell'Inter. Poi i rapporti tra le due società non sono mai stati e non sono ancora positivi tra Fiorentina e Inter, e quindi a quel punto l'impasse è stato lì, oltre ad altri problemi legati al contatto tra Mihajlovic e altre parti della società, come il direttore generale Marco Branca, eppure quella, la parte dello staff medico, che non sarebbero stati semplici considerando il passato, i rapporti che c'erano con Roberto Mancini, che è stato a lungo al lavoro con Mihajlovic. Sul resto, voglio dire, anche il Milan per altre strade dice ufficialmente di non voler disturbare le società e di non voler intervenire sui giocatori sotto contratto. Alla fine comunque i rapporti e gli accordi con giocatori come MXS sono stati trovati. La Roma, è vero, ha provato anche a lavorare sul rinnovo del giocatore, ma questo non è stato evidentemente possibile perché c'era già una sorta di preaccordo fra MXS e il Milan. Quindi insomma vale per tutti, sono leggi del mercato. Io non mi stupirei, non mi scandalizzerei e non mi scandalizzo neppure sentendo queste parole di Aurelio De Laurentiis su Marek Hamsik, che sono un grande rilancio ulteriore sul valore del giocatore. La proposta di docente si riferisce ad Hamsik per dire che tutti sono cedibili se si presentano con una proposta indecente. Per me la proposta indecente sono 100 milioni di euro. Però se qualcuno è così folle o così intenzionato, io non vuol dire che allora mi metterò genuflesso davanti ad Hamsik e dirò in maniera islamica, lo saluterò verso Allah, no? Se no, voglio dire, il signor Hamsik c'ha un contratto che deve rispettare. Raiola, Venglos, non Raiola, non Venglos, sta qua e deve giocare. Non vuol giocare, vuole così scalciare, peggio per lui, rovina solo se stesso. Questo De Laurentiis, show atto secondo, dopo quello con Inler, nella presentazione di Mario Alberto Santana. Sentiamo invece se ci sono delle proposte indecenti che arrivano dall'Inghilterra. Vi avevo già preannunciato ieri il collegamento oltremane, che poi le vostre telefonate hanno indirizzato la giornata e la puntata su altri temi, però era ed è doveroso sentire da Gabriele Marcotti, collega del Times e non solo, la situazione, partendo, Gabriele, buon pomeriggio, da queste proposte indecenti, se realmente ci sono, che arrivano per Wesley Snyder dal Manchester United. Bentornato. Grazie, buon pomeriggio. Diciamo che c'è un po' un mistero su Snyder, nel senso che ieri sera, parlando da Boston, dove il Manchester United è in tournée, Ferguson è stato categorico, ha detto che l'Inter comunque non venderebbe Snyder e che comunque loro non stanno prendendo in esame questa ipotesi, eccetera. Al tempo stesso però i colleghi che seguono il Manchester United e le voci che vengono da Manchester parlano di un interessamento molto forte, se non addirittura di un'offerta pronta. Dicono che Gil, che è l'amministratore delegato del Manchester United, in questo momento sta mettendosi d'accordo con Søren Lerby, il procuratore del giocatore. Quindi diciamo che sono cose un po' contrastanti. La sensazione mia di parecchi che francamente, se stiamo parlando di cifre intorno ai 35-40 milioni, vista l'età del giocatore, visto il fatto che negli ultimi tre anni credo che tra Inter e Real Madrid sia stato titolare appena 70 volte in campionato, visto l'ingaggio, cioè probabilmente per l'Inter sarebbe un affare cederlo, più difficile spiegare come e dove si colloca nello scacchiere di Sir Alex. E invece Franco Piandarini dalla redazione mi informa delle nuove, ulteriori, ultime parole di Xabi su Cesc Fabregas. Dice che è da un anno che sta male lì a Londra e vuole tornare a tutti i costi a Barcellona. Questa è una telenovela infinita, tutti pensiamo che sia lì per essere conclusa e terminare, e alla fine invece Fabregas rimane all'Arsenal. Sarà così anche quest'anno o è l'anno buono? Secondo me quest'anno sarebbe folle non cederlo. Il problema è l'ingaggio, nel senso che è il costo del cartellino, nel senso che un anno fa il Barcellona aveva offerto 40 milioni di euro per Cesc. L'Arsenal ha rifiutato, Cesc è andato, ha parlato direttamente con Wenger, e anche se non c'è conferma, si ipotizza che gli abbia strappato un po' una mezza promessa di cederlo quest'anno. Il problema è che quest'anno Barcellona si presenta lì, ma Barcellona, per quanto mi risulta, non ha più voglia di pagare 40 milioni, perché dice giustamente: noi abbiamo vinto tutto senza Cesc Fabregas, Cesc non ha fatto una grande stagione all'Arsenal quest'anno, quindi ha un anno in più, quindi logicamente noi offriamo un po' di meno, cioè tutto di avere il coltello dalla parte del manico, e l'Arsenal a questo non ci sta. Poi l'Arsenal è anche parecchio infastidito dal fatto che i giocatori di Barcellona un giorno sì, un giorno no, parlano di Cesc, dicono quanto gli piace, eccetera, e agli inglesi non lo considerano buon stile parlare, così è un cattivo gusto, insomma, parlare di giocatori altrui. Ma c'è la sensazione che l'Arsenal stia abbassando un po' le sue prospettive, il suo standing, come dicono da quelle parti, magari a vantaggio del Manchester City, in parte anche di un avvicinamento del Tottenham? O è una sensazione sbagliata, considerando ad esempio che Gervinho, che arriverà da Lille, è un grande attaccante non solo di prospettive, ma già attualmente? Diciamo che questo è un processo che c'è già da tempo. Nel senso che l'Arsenal non ha mai speso molto, ultimamente però non vince anche, nel senso che dal 2004 che non vince alcun trofeo. In questo caso c'è anche un po' di mistero, nel senso che l'Arsenal insiste: no, i soldi ci sono, però preferiamo non spenderli, e abbiamo il tetto degli ingaggi, noi siamo una società seria, eccetera. Il fatto è che adesso stanno anche per perdere Samir Nasri, che ha un anno da scadenza di contratto, il rinnovo, e questi saranno costretti a venderlo. Ci sei ancora, Gabriele? Sì, mi sentite? Ah, ok, sì, adesso ti sentiamo bene. No, l'ultima cosa per chiudere, anzi due. La prima, il Manchester City Ci sono tanti nomi che girano attorno a questa squadra in partenza, in entrata: Tevez, Agüero, Balotelli. Al momento sembra che si sia un po' tranquillizzato. C'è la sensazione che sia una squadra che il prossimo anno può lottare per vincere la Premier League finalmente, secondo te? Secondo me sì, nel senso che se consideriamo che l'anno scorso comunque alla fine sono arrivati terzi in campionato per differenza reti, altrimenti sarebbero stati secondi a pari merito con il Chelsea di Ancelotti. Si considera che comunque il Manchester United ha perso giocatori importanti, diciamo, a livello di spogliatoio come Paul Scholes, come Van der Sar, che l'anno prossimo ci sarà De Gea, che ha appena 21 anni tra i pali. Si consideriamo che comunque, insomma, Mancini ha sempre puntato su giocatori, non dico giovani, ma comunque sono uguali a tutti i suoi acquisti, salvo uno, avevano o 24 anni o meno, quindi giocatori destinati a migliorare. Adesso credo che il City dovrà fare il grande salto di qualità a livello di gioco, nel senso che l'anno scorso è stata una squadra abbastanza pragmatica, abbastanza difensivista, l'importante era entrare nei primi quattro. Adesso quest'anno ci si aspetta un salto di qualità, una squadra un po' più offensiva, che gioca un calcio migliore, cosa che si è visto in passato che Mancini sa fare, basta vedere la prima Inter oppure il gioco che esprimeva la sua Lazio. Però c'è questa grana Tevez che non va via, che adesso questo si è messo in testa, forse si parla di Corinthians che ha fatto questa mega offerta, eccetera. Da quanto mi risulta, se Corinthians si presenta con tanti soldi abbastanza per comprare Agüero, secondo me Mancini non ci pensa neanche un secondo, via Tevez e dentro Agüero, che tra l'altro è anche forse più consono al calcio che vuole giocare Mancini. Sì, risulta anche a me. Per chiudere, l'ultimissima cosa: ieri AS ha pubblicato varie dichiarazioni del presidente del Porto, Pinto da Costa, che parlava di Andrés Villas-Boas e diceva che è letteralmente ossessionato da José Mourinho, che aveva il terrore di rimanere a Oporto per non riuscire a ripetere quanto aveva fatto Mourinho, che dopo la Coppa UEFA, attuale Europa League, aveva vinto la Champions, che va al Chelsea perché lì è andato Mourinho e lui vuole ripetersi e fare meglio, cioè vincere la Champions, cosa che non è riuscita al suo predecessore, eccetera eccetera. È così? Ma che stiamo parlando di due personaggi abbastanza fissati e dalla forte personalità in Villas-Boas e Mourinho, credo non ci sia dubbio. Cioè, questo è uno che a 17 anni ha rotto le scatole a Bobby Robson, l'allenatore del Porto, per farsi assumere, lavorato gratis per anni, uno veramente malato di calcio, in senso buono ovviamente. Però non credo che alla base di tutto sia stato solo Villas-Boas che teneva il confronto con Mourinho, cioè, mi sembra un po' poco generoso. C'è stato anche il fatto che comunque lo stesso Pinto da Costa ha fatto mettere una clausola liberatoria di 15 milioni sì, su Villas-Boas, e credo sia stato ben felice di incassare. Che ne sappia io, c'è un solo allenatore nella storia del calcio che è costato tra virgolette più di Villas-Boas, e questo appunto è Mourinho. Se pensiamo a Villas-Boas, appunto, a 33 anni e a 18 mesi di esperienza di allenatore, beh, allora diciamo che per il Porto è stato un affarone. Grazie, buon lavoro a Gabriele Marcotti da Londra, a presto. Grazie, un saluto a tutti. Un saluto e un ringraziamento a Davide da Forlì, che ci scrive via SMS che anche a Cesena e non solo a Novara si giocherà presto sul sintetico. Notizie del resto del carrino di oggi che ho immediatamente verificato, e si sta lavorando a questo. Sono un po' sorpreso perché ricordo, essendo io di Ferrara sin dagli anni 80, che il terreno del Manuzzi è stato uno dei migliori e dei più belli dell'intera Serie A. Lo era apparentemente, anzi sicuramente anche quest'anno, però questa è la scelta. Si sentirà il profumo dell'erba, ma un po' meno, perché il sintetico di ultima generazione, come sapete, è un composto di erba artificiale ed erba naturale. Fabio da Taranto, prego, sempre democraticamente, mi raccomando. Sempre democraticamente, va bene. Ma io volevo parlare un po' del calciomercato, nel senso un po' di nostalgia degli anni Ottanta, per due motivi principalmente. Prima di tutto il fatto che non sopporto che le squadre vadano in ritiro senza avere ancora ben chiari i giocatori che devono poi fare la stagione. Stesso discorso che poi si porta avanti nel corso della stagione con questo mercato sempre aperto, per cui non capisco anche questi ritiri, quanto convenga poi alle squadre impostare certi discorsi se con praticamente metà squadra ancora che deve arrivare. E poi un'altra cosa, le squadre medie, ricordo, non so, Sampdoria, Verona, tante squadre che certo erano molto attente al mercato, a valorizzare i propri giovani che alla prima occasione magari anche cedevano, però in ogni caso non rinunciavano a partecipare, nel senso che il Vialli, il Mancini se lo tenevano, costruivano una squadra, magari cedevano qualche elemento un po' più che poteva andare, certo erano attenti ai bilanci nel possibile, ma almeno ci provavano a partecipare. Invece Udinese, Genoa, queste squadre medie che di oggi proprio hanno questo mercato sempre aperto in attesa della super offerta e per dar via un po' tutti, cioè, si perde anche un po' il gusto, così non so come la pensate. Sì, no, ho capito, è molto chiaro. Allora, intanto purtroppo i tempi cambiano, non mi ricordo chi aveva detto qualche tempo fa, aveva scritto chi ricorda sempre i tempi andati vuol dire che non riesce a vivere bene quelli attuali. È una cosa un po' cinica, un po' drastica, però purtroppo è la verità. Detto questo, le sue considerazioni sono condivisibili e vere, soprattutto sul fatto della programmazione, della progettualità da parte di tutte le squadre, non solo quelle medie ma anche quelle grandi, perché continuiamo a vedere squadre di altissimo livello che continuano a navigare così a vista, vanno a prendere giocatori e anche allenatori dopo averne cercati e scelti primariamente altri. Poi c'è il discorso dei diritti televisivi. La legge Melandri è molto criticata dalle grandi squadre, dalle grandi società, però ha avvicinato molto i ricavi delle piccole e delle medie a quelli delle grandi. Prima c'era una sproporzione pazzesca, piano piano ci si sta riavvicinando e nonostante tutte le battaglie su audit, il bacino di utenza, eccetera, eccetera. E poi c'è un problema di mentalità, nel senso che siamo l'unico paese in Europa che considera ad esempio l'Europa League una competizione minore e quasi un fastidio, come ha detto Preziosi qualche tempo fa, perché si gioca il giovedì, perché non si riescono a giocare tre partite a settimana per dei professionisti che devono fare trasferte. Queste sono cose dal mio punto di vista incomprensibili. È vero che da noi c'è notevole pressione dal punto di vista psicologico e molte energie si spendono lì, però veramente il modo in cui viene gestito questo appuntamento a livello europeo è sbagliato e si vede poi a gioco lungo, perché tanti giocatori che giocano nei club e non sanno affrontare gli appuntamenti internazionali di prestigio, poi quando vanno in nazionale devono ricominciare da capo e arriviamo magari ai mondiali con gente che non ha mai affrontato palcoscenici di un certo tipo e sente la pressione e non ha il livello richiesto. C'è invece una grande giornata, ci sono grandi giornate che ci aspettano, nuvole, cime, fatica, il tour, scale giganti della sua leggenda, salite secche che fanno male a cuore e gambe, una terra di grotte, pastore, racconti di briganti, insomma. Un po' di poesia, Gianni Mura sulla Repubblica, ma soprattutto Piero Augusto Stagi dal Tour de France. Cosa ci dobbiamo aspettare dei Pirenei? Piero Augusto, bentornato. Ciao, che cosa ci dobbiamo aspettare? Finalmente si dovrebbe cominciare a fare sul serio. Dopo 12 giorni in giro per la Francia, vedendo e visitando posti incredibili, incantevoli, tra veramente montagne di gente, finalmente oggi c'è gente, ma le montagne. E che montagne! Intanto mancano 73 chilometri di questa prima tappa pirenaica. I corridori sono 5 uomini al comando, sono diciamo 5 corridori di seconda fascia che stanno andando in cerca di gloria nel giorno della presa della Bastiglia, quindi è festa su festa oggi, e stanno affrontando il primo colle di giornata, che è un colle di prima categoria, l'Arquette d'Ancien, che è una cima inedita per il Tour de France. Tra una cinquantina di chilometri andranno invece sulla sua maestà Pirenei, che è il Tourmalet, che è in sostanza il monumento dei Pirenei. Come sta Contador, Piero Augusto? Contador al momento logicamente il grosso della maglia gialla sono tutti assieme, sono tutti lì che si stanno controllando. In testa sono i corridori della Europcar, che sono in pratica i compagni di squadra di Thomas Vauclair, la maglia gialla, che oggi cercherà in tutti i modi di tenerla, di non cederla subito, sempre proprio che Contador non decida di scatenare la bagarre proprio sul Tourmalet. Ricordiamo che dei grandi big, il big più big è proprio Contador, in questi 12 giorni è stato molto sfortunato, è caduto 4 volte, ha picchiato 2 volte il ginocchio, e ha questo ginocchio sinistro che gli duole. Ci sono delle correnti di pensiero, chi dice che rischia di ritirarsi e chi invece dice che sta facendo semplicemente un gioco di pretattica psicologico, quindi sta recitando una parte. Oggi ne capiremo di più, perché deve recuperare terreno, perché dei big è quello più indietro. Ma c'è una corrente di pensiero che è quella di noi invece, che dice: si saprà solo chi perderà il tour sui Pirenei, perché la corsa poi si deciderà realmente sulle Alpi. Perché dice questo Ino, e cosa c'è di vero secondo te? No, c'è di vero, è vero, è quasi la palisse, perché una corsa a tappe dove mancano ancora 10 giorni e soprattutto mancano tutte le montagne, per adesso ci saranno 3 giorni, oggi, domani e dopodomani, molto difficile sui Pirenei, dopodiché ci saranno delle tappe interlocutorie e poi ci sarà il grande finale, quando il tour giungerà addirittura anche in Italia a Pinerolo, e ci saranno altri 3 giorni che lì, a tutti gli effetti, sulle Alpi verrà decisa, sul Galibier, che verrà affrontato 2 volte, sull'Alpe d'Huez e a Grenoble con la cronometro, verrà deciso questo tour. Quindi il cammino è ancora lungo. Oggi di sicuro capiremo chi non è in grado di vincerlo, perché chi perde terreno anche oggi è praticamente spacciato. Certo, gli altri se la giocheranno, e quindi non potremo solo capire chi può essere ancora in gioco. Noi ci auguriamo che in gioco ci siano anche i nostri Ivan Basso, certo, e Damiano Cunego, che al momento sono 11° e 12° in classifica, sono proprio lì in rampa di lancia, anzi sono avanti al momento ad Alberto Contador. Ribadisco, Contador è quello che dei big più big è quello che ha pagato pesantemente di più questi 10 giorni molto logoranti sotto l'aspetto soprattutto nervoso. Va e bene. Soprattutto sotto l'aspetto delle cadute, perché Basso, grazie al cielo, non è mai caduto come Cunego e come fratelli Schleck o Cadelevas, e invece molti sono già tornati a casa, come Bradley Wiggins, che era uno dei grandi favoriti, come Tom Bonen, come Vinokurov, come Brajkovic, che sono tutti andati già a casa con le ossa rotte, e invece Contador non ha le ossa rotte ma è molto acciaccato. Dobbiamo capire le botte quanto incideranno, o se invece le ha assorbite molto bene, e secondo me oggi comincerà la sua rincorsa e comincerà veramente a mettere alla frusta tutti. Perfetto. Perché lui ha un orgoglio, è una classe smisurata. Grazie, buon lavoro per Augusto Stagi, lo ritroverete naturalmente all'interno dei GR, poi dopo le 19 Ivan Basso. Mirko da Bologna mi ha sfinito democraticamente: il Bologna ha fatto buoni acquisti, ho seguito Antonsson in Champions con il Copenaghen, è un buon difensore centrale, non è giovane ma è bravo, Crespo molto bravo con il Padova, Gillet una garanzia in porta, vedremo le cessioni. Grazie a Franco Piantanida e Mauro De Angeli in regia, a domani ci sarà anche Giuseppe Cruciani con A Tempo di Sport.